con Paola Petri per parlare di un omaggio ad Elio Petri al cinema al Maxxi, domenica 24 febbraio 2019, con due film, La classe operaia va in paradiso e La proprietà non è più un furto. Paola, ben trovata. Grazie, buongiorno a te. Ci presenti questa giornata? Io ho fatto niente, ecco, ho soltanto parlato con Mario Sesti, non ho collaborato molto, devo dire la verità, ma comunque sono molto felice che si faccia perché a Roma hanno fatto veramente molto molto poco, fino adesso almeno. Presentiamo i due film brevemente per chi ci ascolta. Sì, beh, La classe operaia del paradiso è un film che ha avuto un bel cammino perché quando andò al Festival di Cannes vinse la Palma d'Oro ex aequo con un film di Francesco Rosi, che era pure un amico di Elio, quindi erano molto contenti e in più c'avevano lo stesso attore, Gian Maria Volonté, che insomma ha fatto molto per il cinema italiano, secondo me. Raccontiamo brevemente anche la trama del film. È una storia di un personaggio che si chiama Lulù, che lavora in una fabbrica, nella fattispecie la fabbrica era una vera fabbrica, ma era una fabbrica occupata, la Falconi, che faceva ascensori a Novara. Mi ricordo perché andai a trovarli che c'era la neve, faceva un freddo caldo, per noi meridionali, insomma, era un vero paesaggio operaio. C'erano quindi attori veri naturalmente, ma anche qualche operaio che partecipava al film. E la storia di questo, come si chiamano, insomma, quelli che lavorano moltissimo, fanno dei tempi pazzeschi, che però a un certo punto si taglia un dito per lavorare come un dannato. E da quel momento comincia un po' una rivoluzione nella sua testa, si rende conto che sta facendo qualcosa di un po' stupido e pericoloso. E poi meglio non raccontare perché sennò la gente non si diverte per niente. L'anno scorso c'è stata una edizione teatrale di questo film, Sì. io l'ho visto a Milano, ma sono venuti anche a Roma, che ha avuto un grande successo, grandissimo successo, e c'era un giovane attore che si chiama Lino Guanciale che faceva il ruolo di Lulù e più una la compagnia, insomma, di cui lui fa parte, che è un lavoro abbastanza importante secondo me. Non so se questo è servito anche a riportare in luce Elio Petri come regista, perché in questi giorni sono usciti, grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia che aveva fatto un omaggio a Gian Maria Volonté, alcuni film di Elio, perché Elio e Gian Maria hanno lavorato insieme 4-5 volte, se non vado errata. E so che il cinema era sempre stracolmo, anzi. Hanno dovuto rimandare indietro parecchie persone, quindi questa è una cosa che mi fa più piacere di tutti, perché in fondo i ragazzi hanno un occhio abbastanza fresco rispetto a questi film che all'epoca hanno pure creato delle storie un po' nel cinema politico, tutte queste cose qui. Insomma, adesso i film ai ragazzi se lo guardano e se lo godono forse più di quanto non abbiamo fatto noi all'epoca. Spendiamo anche due parole sulla proprietà non è più un furto? Ecco, io questo è un film che certo lo conosco benissimo, d'accordo, però l'ho visto molto meno perché è andato soltanto una volta al Festival di Berlino all'epoca, con tutti gli attori che Elio si trascinava dietro, tutti quanti. È un film un po' diverso rispetto alla classe operaia, più complesso e più avanti come linguaggio, però ha avuto una strana vita questo film perché nel 2013, se non sbaglio, 2014, andò a Venezia, c'è un cinema ritrovato che fa Bologna con la Mole di Torino, e vinse il premio che davano i ragazzi, perché la giuria era fatta da tutti i ragazzi, quelli che in Italia si occupano di cinema all'università. Fu premiato e gli fu dato il leone d'argento, non lo so, io non l'ho visto il film di fondo, devo dire, però so che c'è perché c'è anche una fotografia di Gianluca Farinelli del Cinema di Bologna e del direttore del festival Alberto Barbera. Una cosa mi fece molta allegria anche perché Elio non c'era mai stato al Cinema di Venezia in concorso, insomma non era stato invitato, anche perché Cannes veniva molto prima e lui è stato invitato a Cannes per tre volte si è portato a casa un premio, fino a che non ha preso la Palma d'Oro. Paola, ci racconti anche dell'attività di memoria che porti avanti il lavoro sul sito internet liopetri.net? Cerco di fare quello che posso perché io non sono legata con né iscritta a tutte queste cose tipo Facebook e compagnia cantando. So che dovrei farlo, ma mi fa un po', non lo so, non mi piace molto, ecco. Però cerco di mettere a giorno quello che succede in generale nel cinema. Poi ho tanti amici in Francia, per esempio, che mi mandano notizie, li hanno fatto uscire molti film di oggi al cinema, ma non solo a Parigi, in cinemini che loro ci hanno, beati loro, ma proprio dei circuiti, diciamo, non per i blockbuster ovviamente, però importanti. E curiosamente uno dei suoi film più belli secondo la critica e buona parte del poco pubblico che ha avuto è stato quello che ha fatto guadagnare di più il produttore e distributore, Giorni contati con Salvo Randone, che a me è una cosa che ha fatto molto piacere perché non era mai uscito il film in Francia, tra l'altro, ma in generale il cinema italiano, persino sordi, voglio dire, non in Francia non ha avuto un grande seguito, insomma è stato faticoso, anche se era un cinema negli anni, fine anni 60 fino al 1980, che oggettivamente era un cinema molto importante, molto, molto, molto, è stato molto copiato anche dai grandi registi italiani, alcuni dei quali come Martin Scorsese, di origine italiana, d'accordo, ma che italiano manco lo parlano, quindi era proprio l'immagine che gli piaceva a loro. Poi non so, poi che è successo, il pubblico si è staccato, insomma è stato un po' un disastro e per di più gli italiani hanno un difetto, secondo me, che non hanno memoria e questa non è una buona cosa. In Francia non è così, devo dire la verità, e nemmeno in Germania, perché io sono stata a un'altra rassegna che hanno fatto nel 13 a Berlino ed era impressionante la gente che veniva e credetemi, è tutta gente che non era manco nata quando lui è morto, ecco, oppure era proprio in carrozzina. Paola, allora ricordiamo questo doppio appuntamento per domenica 24 febbraio 2019 per Cinema al Maxi con un omaggio ad Elio Petri e ci sarai anche tu presente, vero? Beh, io ci andrò anche per rivedere La classe operaia, che peraltro ho rivisto l'anno scorso, un anno qualche cosa fa, a Milano alla Fondazione Prada, che c'è un cinema meraviglioso. Sono stata invitata e c'era abbastanza gente, devo dire. Un cinemone abbastanza grande, bello. Mi fa piacere perché è un film che, anche se non c'è niente di simile, di molto simile, ma c'è ancora un grosso problema per la gente che lavora, che sia classe operaia o classe medio piccola borghese, c'è un disastro in tutto il mondo da questo punto di vista, quindi mi sembra che non sia invecchiato troppo il film, anzi per niente, a detta dei ragazzi per niente, sono loro quelli che vedranno i film nei prossimi anni, speriamo che ci sia ancora un po' di cinema, in Italia mi sembra un po' malmesso, ma insomma vediamo, speriamo bene. Allora Paola, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille. Saluti ai tuoi interlocutori, che spero siano anche giovani. Ciao. Bene.